e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E nel confessionale di grande sorella abbiamo Elena e Massimo. Massimo, ciao. Buonasera ragazzi. Ciao. Allora, spieghiamo un po' ai nostri telespettatori qui che ci ascoltano in radio che Elena è una persona abbastanza speciale al convento. Certo. Spieghiamo un po' il tuo ruolo al convento. Di quanti anni fa parliamo soprattutto? Correva l'anno 2009, estate 2009, ed era la nostra barista di fiducia. E mi diceva Gabri che eri accompagnata, giusto? Sì, piace un po'. Perché partevamo da Vicenza, io e un'altra ragazza di nome Shida. Da Vicenza, ci facevamo 100 km venerdì, sabato e domenica per venire qua a festeggiare insieme a voi lavorando. Oh, vabbè, non ci credo. Cioè, venivano da Vicenza per lavorare, divertirsi qua con noi. Esatto. Cioè, abbiamo detto tutto. Esatto. Il divertimento assicurato. Ce lo sta proprio raccontando lei in questo momento. E questa sera come ti sei? Che emozione hai provato entrando di nuovo da quella porta e ritrovare di nuovo l'atmosfera di tanti anni fa? È sempre bellissimo, pieno di emozioni, pieno di novità, di idee. Cambiamenti, penso. Io adesso non c'ero prima, ma mi raccontano di tanti cambiamenti. Molti, sì. E invece stasera sei in compagnia di? Il tuo compagno. Ah sì, abbiamo lasciato i bimbi dei nonni. Ci sta una serata. E mi hanno detto andiamo a festeggiare anche noi al convento. 33 anni, bisogna festeggiarli. Certo, hai partecipato anche tu a questi 33 anni. Esatto, c'è da festeggiare. Per poco, ma ci sono stata anch'io. Il tuo compagno era già venuto qualche altra volta o la prima volta? Una volta. Penso 4 anni fa. Mi sembra più o meno. Bello. Bello canta per testa. Sì. Cosa dici? Allora, avete già ballato o state solo girando in giro? Un po'. Io vi voglio vedere ballare. Beh, certo. Soprattutto quando c'è che è Sant'Anna. Allora, mi vuoi raccontare qualche evento che ti è rimasto impresso nel corso del tuo lavoro qui? Un evento particolare? No, mi ricordo sempre tanto un clima bellissimo di festa, tutti felici, entravano col sorriso, uscivano col sorriso e basta. Ecco, questo è quello che ci interessa. Esatto, a voi. Esatto. Fa piacere. Poi Sandrino, ricordo. Sandrino è in giro lì. Sì, è qua, è qua. Ha portato a Rosmarini mia mamma anche una volta. Gli ha fatto vedere tutte le piantine qua intorno, non so cosa abbiano fatto, però vabbè. Sono dettagli, dettagli. Meglio sorvolare, esatto. Va bene, allora io vi lascio proseguire la serata e buon divertimento. Grazie mille, grazie, buona serata. Piacere, ciao. Ciao.